Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Domenica? No, grazie. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo è lo slogan della manifestazione che si tiene oggi in tutta Italia contro le aperture domenicali dei negozi. Un tema molto dibattuto nella grande distribuzione. Cercheremo di capire le ragioni del sì e del no. Nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Uno snack in cambio di un tweet. Il mondo del retail è sempre più social, scopriremo da GDO Week. Focus sui trend dedicato infine ai consumi in vetrina, quando i prodotti si mettono in mostra dalla fabbrica allo scaffale. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Saks sbarca in Kazakistan. Il retailer del lusso americano ha annunciato l'apertura di uno store ad Almaty, la città più popolosa del paese, il primo in terra cosacca. Arriva dalla Cina il nuovo colosso dei gioielli, la catena Chow Tai Fook, 1700 negozi, ricavi per 4 miliardi e mezzo di dollari, una notorietà al pari di Cartier e Tiffany in Cina, è pronta ad espandersi sui mercati europei, dove progetta di aprire 600 negozi entro il 2016. Abbasserà definitivamente le serrande martedì 16 ottobre lo storico McDonald's di Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Per ringraziare i 40 milioni di clienti che in questi 20 anni lo hanno frequentato, il colosso del fast food offrirà il pranzo a tutti. Ridurre l'impatto ambientale, calcolando i cosiddetti eco-cost dei prodotti, per arrivare ad avere processi di produzione certificati, è l'obiettivo dell'accordo siglato tra Ministero dell'Ambiente e Gucci, prima azienda del settore lusso a muoversi in questa direzione. Prevista anche la valutazione dell'impatto etico-sociale. Nasce FamilyLink Travel, il social network che mette in contatto famiglie che abitano in luoghi differenti per offrire ospitalità reciproca. La web community propone un nuovo modo di viaggiare in famiglia, al di fuori dei circuiti classici, riducendo le distanze fra turisti e abitanti del luogo. Continua a crescere nel mercato della pubblicità il ruolo di Internet, l'unico mezzo ad aver incrementato il volume della raccolta pubblicitaria nel 2011. Lo rivela il 10° rapporto Censis sulla comunicazione, secondo cui la pubblicità che viene apprezzata di più è quella che informa, 54%, seguita da quella che diverte, 39%, e quella che emoziona, 7%. La borsa della spesa. Come sindaco di Lanschenet voglio darvi il benvenuto nella comunità e anche invitarvi ad onorare con noi la messa della domenica. Lei è molto gentile, ma noi non siamo praticanti. Spero che verrà a trovarci quando avremo aperto, tra una settimana. Sì, aprire una pasticceria durante il sacro digiuno quaresimale non immagino un momento migliore. Oh, ma io non voglio mettere una pasticceria. Allora cosa hai intenzione? È una sorpresa. Ci è già capitato di usare questa citazione dal film Chocolat. La sorpresa per chi non avesse visto il film era una pralineria. La usiamo per parlare di aperture domenicali dei negozi. Un tema spinoso nel mondo del commercio tra diritti dei lavoratori, crisi e contrazione dei consumi, liberalizzazioni e tempo per la famiglia e le relazioni sociali. Un tema sentito in tutta Europa e del marzo scorso la giornata di blocco della spesa Occupy Sunday è sentito in Italia mai come quest'anno, complice i liberi tutti del governo Monti, tanto che oggi sono scesi in piazza in molte città per protestare contro le aperture domenicali commesse e commessi di ipermercati e centri commerciali, promotori dei comitati Domenica No Grazie, piccoli gruppi nati spontaneamente in varie regioni e cresciuti su Facebook, con loro figli, mariti, mogli, fidanzati, con i quali dicono non riescono più a condividere il tempo del riposo. L'abbiamo chiamata la rivolta dei parenti, ci dice Valeria Ferrarini, 46 anni, da 17 fa la commessa in un centro commerciale di Modena ed è la cofondatrice del comitato antiliberalizzazioni modenese. Questa manifestazione nasce per un malcontento sia di chi lavora nel settore commercio sia dei parenti che sono comunque strettamente collegati a questo, nel senso che i disagi che sentono i lavoratori e le lavoratrici sono anche anche sentiti dalle famiglie. Tutto il discorso della gestione familiare con queste aperture della domenica viene veramente messo in difficoltà, visto che la maggioranza di persone che lavora nel settore sono donne. Noi, parlando anche con la clientela, abbiamo dei riscontri positivi a nostro favore, nel senso che molti la pensano come noi, per certi aspetti fa comodo, però non vediamo questa necessità anche dal punto di vista degli incassi o delle maggiori vendite, perché comunque gli incassi sono sempre divisi stavolta su 7 giorni anziché su 6, quindi non abbiamo visto né un aumento di vendite né un incremento di occupazione. Noi per primo, il nostro negozio non, titolare, non ha assunto nessuno per le aperture del weekend, della domenica. Le aperture domenicali, inutile negarlo, ai consumatori molte volte fanno comodo. Infatti le associazioni dei consumatori sul tema sono divise. È anche vero, come sottolineano i sociologi, che non si tratta di una questione solo commerciale, ma anche sociale e culturale, perché il tempo libero non può diventare solo il tempo del consumo. Ma le aperture domenicali, a conti fatti, aumentano il fatturato degli esercizi e l'occupazione? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione, che è l'associazione che rappresenta la maggioranza delle imprese della grande distribuzione. Noi riteniamo che questa opportunità che ci è stata offerta dalla legge Salva Italia sulle liberalizzazioni degli orari di apertura debba essere colta, perché guardiamo a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti e dei nostri consumatori, e quindi abbiamo potuto constatare che i clienti apprezzano il servizio, possono fare acquisti più oculati, e vediamo tutto questo in linea con quella che è la missione della grande distribuzione, che, come dico, è al servizio del cliente. È chiaro che questo è un tema discusso e quindi c'è libertà di manifestare, e noi non abbiamo nulla in contrario con questo, però segnaliamo che c'è una forte disponibilità da parte dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici. È una maniera di mantenere i livelli occupazionali, di portare a casa come dipendenti una retribuzione maggiorata da quello che è il 30% che è il valore di maggiorazione che si dà per il lavoro della domenica. Uno degli argomenti che gli oppositori, per così dire, del lavoro domenicale portano a sostegno della loro tesi è che comunque il fatturato non cambia, nel senso che al limite l'acquisto viene spostato e non invece in termini di volume aumentato. Ecco, i dati in vostro possesso in questo senso che cosa dicono? Dicono che nel settore non alimentare si percepiscono dei risultati positivi che attenuano almeno parzialmente quella che è la caduta dei consumi. Nel settore alimentare invece si percepisce forte il maggior servizio che si dà al cliente, quindi probabilmente nel settore alimentare c'è un trasferimento di acquisti, i negozi sono meno affollati e quindi c'è un maggior servizio al cliente. Bisogna guardare quella che è la realtà. La crisi dei consumi da una parte e una forte concorrenza che vengono da negozi che sono abitualmente aperti la domenica. Alludo agli outlet fuori dalle città, alludo ai negozi sulle autostrade e alludo anche alle offerte che fa l'e-commerce, che è praticabile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e che evidentemente sottraggono vendite a quelli che sono i negozi tradizionali. Continuiamo a parlare di grande distribuzione, ma con un'altra prospettiva, sempre più social, anche negozi e supermercati, ci racconta Cristina Lazzati, vice direttore area retail di Business Media. Crowdsourcing per diventare ancora più green. Questo è il proposito di Sainsbury, terza catena inglese nel retail alimentare. Justin King, CEO di Sainsbury, ha affrontato a viso aperto una platea di 150 esperti, aziende di produzione concorrenti, la Crowd per l'appunto, mettendo sul tappeto le strategie green dell'azienda, chiedendo valutazioni, consigli e accogliendo critiche. Il sourcing. Un social non solo di intrattenimento dunque, non solo mi piace di Facebook che ormai possono decretare il successo di un capo o di un prodotto o la sua sparizione dal mercato. Il crowdsourcing permette di sperimentarsi a monte sulle strategie. Sempre in tema di pareri e sempre in UK, Kellogg's ha aperto un temporary store dove si paga tramite Twitter, uno snack in cambio di un tweet. Nelle sfilate londinesi appena concluse, Topshop, big del fast fashion, ha dato la sfilata in streaming su Facebook. A tutti partecipanti offerta, oltre alla prima fila, la possibilità di scegliere la colonna sonora della sfilata, di scattare e condividere le immagini dei loro pezzi preferiti e infine di comprare istantaneamente i capi in passerella. Se volete saperne di più, gdweektv.it. Non c'è niente di perfetto, neanche dentro alla vetrina del negozio di giocattoli da bambini. Di nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend. Oggi parliamo di consumi in vetrina, lo facciamo con la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Sempre di più oggi prodotti e servizi si mettono in vetrina, si raccontano, dai musei d'impresa ai social network, raccontano la storia dell'azienda e della propria catena produttiva. Un tema, quello della trasparenza, della filiera che le istanze legate alla sostenibilità ambientale e sociale rendono sempre più imprescindibile. Un'opportunità e uno strumento di marketing prezioso, ma attenzione agli scheletri nell'armadio, come abbiamo scritto sulla pagina Facebook di Essere Avere, anticipando proprio il tema della puntata di oggi. Patrizia, ci sono vari discorsi da fare su vari livelli. Sì, un primo livello è quello delle aspettative dei consumatori, che oggi vogliono sapere tutto su ciò che acquistano o intendono acquistare, e per assecondare questa aspettativa, che è informativa ma anche di comunicazione dei valori da parte del brand, prodotti, servizi, marche, aziende appunto si mostrano sempre più senza veli, si raccontano per come sono. Come lo fanno? Mostrando, come dicevi, il processo produttivo, alla filiera appunto, ed ecco il fenomeno della vetrinizzazione cosiddetta, che segna una svolta molto importante nel rapporto tra brand e consumatori. Vetrinizzazione significa mettere in vetrina non il marchio, non il prodotto, non il servizio, ma il processo, e far vedere come viene fatto ciò che si offre. È un termine proposto dal sociologo Vannico De Luppi con riferimento al fenomeno di spettacolarizzazione degli individui e della società, società contemporanea che altri sociologi definiscono appunto confessionale. E allora questi codici esibitori sociali oggi cominciano a essere assorbiti anche dal mondo delle filiere produttive, e tutto questo in funzione ovviamente di una maggiore autenticità da far percepire nel dialogo con i clienti consumatori. Ecco per esempio come Lay's, colosso statunitense dell'industria alimentare che produce patatine fritte, dunque junk food, racconta e mostra che cosa c'è dentro i suoi sacchetti di patatine con un'iniziativa in store nei punti vendita americani in cui è presente il prodotto. Ha posizionato una speciale vending machine con accanto dei cesti di patate. Inserita una patata al posto della monetina, parte un video che mostra, come se fosse effettivamente il meccanismo vero dentro il distributore, la creazione delle patatine, che sono tra l'altro tra le più vendute negli Stati Uniti, quindi dalla lavatura al taglio, alla frittura, all'imbusamento, fino al rilascio del pacchetto prova da assaggio che esce caldo. Dal racconto sul come al racconto sul chi lo fa, perché anche il chi, le persone che stanno dietro servizi e prodotti, diventano altrettanto importanti e vengono vetrinizzate. Lo fa Who Made It con un buon esempio di racconto del dietro le quinte. Siamo nel mondo del design artigianale fatto a mano. Who Made It vende online collezioni d'autore e l'enfasi di questo marchio è non tanto sugli oggetti ma sul designer, cioè sul chi, sulla persona che appunto racconta e mette in mostra la sua esperienza creativa, tutto questo online. Ma racconta il chi lo fa, è un caso molto interessante, anche una banca come BNL Paribas che racconta i propri servizi rimaterializzandoli proprio nelle persone in carne e ossa. Entrando nella home page si trova l'immagine per esempio di un ragazzo in divisa da calcio con la porta alle spalle, nome e cognome e una dicitura: centro relazioni clientela e allenatore squadre giovanile, scopri la sua storia. Parte un video dedicato interamente a lui. L'interesse per i prodotti e per le dinamiche di produzione è arrivato anche nei programmi TV. Ne citiamo uno su tutti, Come è fatto, su Real Time e Discovery. Quando sai come è fatto un oggetto, assume tutto un altro fascino. Gli iPod sono il simbolo dell'era digitale, ma l'emozione che regala la melodia di un carry-on resta ineguagliabile. Si modella la ruota della carica a molla e vi si incidono i denti. Questa ruota dentata è simile a quelle degli orologi, un dispositivo di precarica. Un tagliapizza di qualità è realizzato in acciaio inossidabile da coltelleria. Qui una pressa punzonatrice ricava le lame circolari. Gli adesivi possono personalizzare i biglietti di auguri o gli album fotografici. I bambini invece amano attaccarli al muro. Un foglio di fotopolimero è caricato in una macchina detta espositore automatico. Una volta che la pinna è avvitata nella scatola, la tavola è pronta a decollare. Patrizia, ci sono molte aziende, Ducati, tanto per citarne una di quelle più famose, che propongono addirittura visite all'interno dei propri stabilimenti di produzione, e ci sono altre aziende ugualmente di successo che non lo fanno. Una su tutte, Apple, caso emblematico con tutte le polemiche legate all'azienda fornitrice della casa di Cupertino, la cinese Foxconn. Ma dunque, mettersi in vetrina non è necessariamente speculare a far entrare le persone nelle fabbriche di produzione. Stiamo ancora parlando di espedienti di comunicazione e di branding unilaterale in questo senso. Così come Lace racconta come fa le patatine, ma presumibilmente le sue fabbriche corrispondono in parte a quello che si vede in quel video. E a proposito del Museo Ducati, che è il luogo di culto della tribù dei ducatisti, è nota la dichiarazione dell'allora amministratore delegato Minoli. Quando ho rilevato l'azienda, dice, il tetto della fabbrica perdeva, eppure la prima cosa che ho fatto è stata avviare la costruzione di un museo che è diventato una sorta di Mecca a cui andare in pellegrinaggio. Oltre ai musei aziendali, sono i negozi e il retail l'altro vero luogo per mostrare in chiave comunicativa la creazione del prodotto. E il retail, soprattutto di moda, ha intercettato questa voglia anche un po' voyeuristica dei consumatori e anche l'opportunità evidentemente comunicativa legata alla vetrinizzazione. E così nuovi format di negozi come Suit Supply, un brand olandese di abbigliamento maschile formale che ha aperto un punto di vendita anche a Milano, colpiscono proprio per come interpretano questo concetto. Il rimando al fatto su misura è immediato già prima di entrare, semplicemente perché nella grandissima vetrina dello store fa bella mostra di sé la postazione di un vero sarto, con tanto di macchina da cucire, che lavora e personalizza l'acquisto. A New York il primo atelier di jeans su misura si chiama 3x1, di recente apertura, è di fatto una grande vetrina in cui troneggiano macchine da cucire e di nuovo sarti al lavoro. Idea analoga a riconferma di questo trend per il nuovo flagship store di Levi's a Parigi. Un piano intero dei tre è dedicato a un laboratorio sartoriale, si chiama Tailor Shop, dove sarti professionisti customizzano in diretta, stringono, fanno l'orlo eccetera i jeans acquistati in negozio, e in quel caso il servizio è gratuito. Ma anche chi vuole può portare il proprio paio di, per esempio, 501 d'annata e adattarlo alle nuove forme. Passiamo al cibo, altro mondo capace oggi di esprimere innovazione anche rispetto al tema di oggi. Ristoranti che hanno messo in vetrina le cucine non è più una novità, vetrate e cuochi in Bella Vista sono ormai una costante, e se non sono a vista vengono comunque fatte vedere ai clienti. Ed ecco l'idea di Ham Holly Burger, due punti vendita, uno a Milano e a Roma. Sono hamburgerie gourmet, diciamo 2.0, che hanno introdotto gli iPad ai singoli tavoli per le ordinazioni e per intrattenere i clienti nell'attesa. Ma si può anche attivare la telecamera puntata sulla cucina e guardare con uno zoom i dettagli delle mani del cuoco che sta cucinando i piatti ordinati. Risponde alla voglia di sapere come è fatta qualsiasi cosa la rubrica What's Inside, che cosa c'è dentro, del mensile Wired. Sul numero di questo mese, molecole con gli artigli, il segreto dell'attaccatutto rapido. Un mix che si aggrappa agli atomi e alle tue dita, il sottotitolo. Si leggono cose come difenolo di cloroidrina isopropilidene o metilammina, insomma sembra il festival della chimica ed è solo il buon vecchio Attac. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Basilea, Svizzera, sui consumi in vetrina? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Confrontations è il titolo di una mostra che si è chiusa lo scorso settembre al Vitra Design Museum. Questa mostra è nata con l'obiettivo di mettere a confronto, e di qui il titolo, 5 studi di design olandesi emergenti, fortemente impegnati nella sperimentazione, con aziende attive nell'area geografica del museo, quindi a cavallo tra la Svizzera e la Germania. Il dato veramente innovativo e interessante è che la mostra era incentrata sul concetto di processo, per cui la collaborazione ha avuto il suo culmine nella settimana di Art Basel, quindi lo scorso giugno, quando i gruppi di lavoro si sono alternati per un pomeriggio sul palco centrale della galleria per rifinire i rispettivi prodotti. Ossia, il processo progettuale ha preso la sua forma definitiva e per certi versi imprevista davanti agli occhi del pubblico, quasi fosse una testimonianza in tempo reale del caos creativo, come dire, le cose iniziano in modo approssimativo e si concretizzano nel corso di una performance dal vivo. In questo senso Confrontations è stata una vera e propria sfida non solo per i designer e per i produttori, ma anche per gli utenti, che abitualmente prendono visione di un prodotto finito. Questo modifica anche il ruolo e il potenziale del museo stesso, che si trasforma in un laboratorio di produzione non solo di oggetti ma anche di senso. Grazie Alessia. Patrizia, è una tendenza questa che, se opportunamente interpretata in tema di etica e trasparenza, può fare molto bene ai consumi e ai consumatori. Sì, dicevo prima, siamo in una società dove il privato viene sversato e pubblicato, e questa cultura, chiamiamola dello striptease, ora viene interpretata anche dalle aziende, ma questo va bene proprio sul piano etico, perché potrebbe indicare che stiamo andando o tornando verso un'idea di brand al servizio dei consumatori, quindi prodotti e servizi comunicati per quello che sono, per come sono fatti e soprattutto per l'utilità che hanno. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile dal nostro sito radio24.it. La trovate anche sulla pagina Facebook di Essere Avere, una pagina aperta al contributo di tutti voi. Mandateci le vostre idee, i vostri suggerimenti. A domenica prossima alle 16. Come sempre, un saluto da Maria Luisa Pezzali.